Riccardo Antonini, ricordiamo, insomma, compagno ferroviere che è stato licenziato da Trenitalia perché, insomma, ha fatto da consulente all'Associazione dei familiari delle vittime della strage di Viareggio. Insomma, è iniziato la prima udienza per il suo reintegro oggi alle 11:30. Insomma, lo abbiamo adesso in ascolto. Se ci puoi dire, insomma, come è andata intanto. Buongiorno a tutti. La cosa importante è che c'era una nutrita presenza di familiari, cittadini e lavoratori con i propri striscioni dei consigli di fabbrica di numerose aziende viareggine della Versilia, per cui diciamo 200-300 persone che bloccavano la strada. E questo credo sia il dato importante e significativo di questa vicenda su Viareggio e sul mio licenziamento, che è un effetto di questa mobilitazione ormai che dura da 3 anni. Per quanto riguarda la vicenda processuale, il giudice ha fatto una proposta conciliativa per la mia reintegrazione col fatto di, concluso l'incidente probatorio, di cessare la mia attività di consulente di parte. L'azienda ha detto immediatamente che era decisamente contraria, il giudice ne ha preso atto e poi nella discussione l'azienda ha fatto un passo indietro e ha detto che valuterà questa proposta, e quindi il giudice ha detto se su questa proposta le parti discutono e trovano una conciliazione, bene, diversamente il processo riprende il 2 ottobre e poi si andrà a sentenza. Questo è sostanzialmente quanto è avvenuto questa mattina nei tre quarti d'ora, 60 minuti in cui si è tenuta la prima udienza per la mia reintegrazione. Insomma, ricordiamo che oltre te, insomma, c'era anche il processo di appello chiesto da Trenitalia per Dante De Angelis, che non siamo riusciti a contattare pure questi giorni. Insomma, ecco, le ferrovie e Trenitalia continuano imperterrito, insomma, a rifiutare, a mettere, insomma, il muro, a minacciare e a ricattare i lavoratori che cercano, insomma, di non solo alzare la testa, ma ne, insomma, fare anche il minimo, insomma, su alcune cose, insomma, applicare anche i regolamenti stessi. Certo, se poi, insomma, si fa attività politica, ecco, questo naturalmente per Trenitalia peggiora la situazione. Però la solidarietà, come dicevi tu, insomma, è tanta anche fuori dal tribunale stesso. Ecco, come pensi che andrà avanti questo tipo di politica, insomma, di Moretti, ma anche per la tua vertenza stessa, insomma? Noi continuiamo questa mobilitazione su Viareggio perché pretendiamo sicurezza, verità e giustizia. Vogliamo che una strage come quella di Viareggio, con 32 vittime di cittadini che stavano riposando nelle proprie abitazioni, innanzitutto non abbia a ripetersi, che non rimanga impunita come purtroppo tante stragi in questo paese e che non sia dimenticata. Quindi noi non vogliamo né dimenticare né che rimanga impunita e che sia garantita la sicurezza per i ferrovieri, i viaggiatori e oggi purtroppo possiamo dire anche i cittadini come quelli che sono bruciati vivi nella strage di Viareggio del 29 giugno 2009. Per cui la nostra battaglia prosegue fino al raggiungimento degli obiettivi che abbiamo posto. Il mio licenziamento è un episodio di questa mobilitazione, vedremo di far sì che possa essere annullato, perché vorrebbe dire innanzitutto cancellare un'ulteriore offesa nei confronti dei familiari e della città di Viareggio. E in secondo luogo, altrettanto importante, ostacolare ogni forma di intimidazione nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici che sono impegnati in prima fila a garantire sicurezza, salute e difesa dell'ambiente nei luoghi di lavoro e sul territorio. Va bene Riccardo, insomma, noi ti ringraziamo, naturalmente la nostra solidarietà come sempre va a te e a tutti i lavoratori delle ferrovie, insomma, che stanno licenziati, comunque sotto intimidazione da parte padronale. Noi continueremo a sentire le vittime dei familiari di Viareggio, continuano a sentire anche te e insomma con questo ti ringraziamo e ci sentiremo per aggiornamenti. Mi sembra di capire ad ottobre, insomma, il tuo processo. ottobre, sì. Sì, invece quello di Dante De Angelis, sì, se non ci sarà una conciliazione, riprende il 1° di ottobre. Ah, okay, ok. Quindi in 2 giorni si fa l'uno e l'altro. Ci dai anche questa notizia, insomma. Grazie, grazie Riccardo, ci sentiamo presto. Ciao, grazie a voi. Ciao. Ciao.